ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Europa, Europa! L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Ben ritrovati e innanzitutto un ottimo fine settimana a tutti voi da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Paolo Corleoni in regia. Dunque, la scorsa settimana avevamo aggiornato, diciamo, sul fronte Covid europeo con il rinvio del Consiglio appunto del vertice europeo positività da parte di una guardia del corpo del presidente del Consiglio UE Michel, vertice che dunque Consiglio europeo, anzi essere precisi, Consiglio europeo che si è stato realizzato invece nelle giornate di giovedì e venerdì. Molte decisioni in realtà, o meglio, molta dell'agenda era già orientata sul fronte delle decisioni di politica estera, quelle che lo sappiamo essere uno dei temi più deboli, delicati, fragili dall'Unione. Insomma, cosa è uscito da questa riunione? Il titolo è di fatto l'avvio delle sanzioni alla Bielorussia e l'avvertimento alla Turchia. Due questioni ben distinte, evidentemente, sia sul fronte geografico che politico, che però si erano mischiate, diciamo pure attorcigliate, nel momento in cui Cipro, quindi Cipro dell'Unione Europea, la Cipro greca, aveva detto no all'accordo sulle sanzioni alla Bielorussia perché, pur essendo d'accordo su questo tema, riteneva che l'Unione Europea fosse troppo timida / pavida nei confronti delle pressioni turche nell'Egeo. Morale della favola: alla Bielorussia sono state dunque comminate il primo blocco di sanzioni, alla Turchia un avvertimento. Ma per fare il punto di quanto accaduto nella due giorni europea, sentiamo il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. È stato un vertice europeo dedicato principalmente alla politica estera, quello di questa settimana qui a Bruxelles. I 27 hanno deciso di sanzionare i dirigenti della Bielorussia, a cui vengono rimproverati metodi dittatoriali e violenti. Hanno anche trovato sulla Turchia una strategia basata su due filoni. Hanno aperto a un dialogo positivo con Ankara, avvertendo però il governo turco di essere pronti a misure restrittive nel caso di nuove violazioni del diritto internazionale ai danni di Cipro e della Grecia. Sul fronte economico, in attesa di capire l'evoluzione delle trattative sul prossimo bilancio comunitario, a cui è associato un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, i 27 si sono concentrati su un obiettivo di lunga lena. Vogliono che l'Europa persegua un'autonomia strategica, riducendo la dipendenza produttiva da paesi terzi. Lo sguardo corre al deficit di mascherine all'inizio dell'epidemia influenzale. Il concetto di autonomia strategica fa paura ad alcuni paesi del nord Europa, preoccupati che possa tradursi in protezionismo commerciale e nazionalismo economico. Durante il vertice hanno quindi chiesto che fosse precisato l'obiettivo parallelo di mantenere un'economia aperta. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Grazie a Beda Romano, dunque il punto di questa due giorni di Bruxelles, due giorni che ha caratterizzato anche la presenza fisica, peraltro, dei leader. Ursula von der Leyen interviene anche in maniera piuttosto chiara su uno dei dossier che sicuramente ci faranno compagnia in autunno. La sentiamo. We had invited our British friends to remove the problematic parts of their draft internal. Ecco, dice, abbiamo invitato i nostri amici britannici a rimuovere le parti problematiche. Qui c'è, come dire, tutta la diplomazia dell'Unione Europea. La sintesi è, come poi ha detto in un passaggio successivo, che l'Unione Europea con il Regno Unito vuole sì un accordo, dice, ma non ad ogni prezzo. Lo ricordo, la questione viene sollevata nel momento in cui il premier britannico Boris Johnson torna di fatto sui suoi passi, sulla sua decisione da lui stessa condivisa nei mesi scorsi con Bruxelles sull'unione doganale. Improvvisamente introduce una nuova legge che fa votare al Parlamento, che passa e che mette in discussione di fatto tutto l'assetto che era stato deciso nelle trattative. Una sorta di, come dire, pacato richiamo, ma anche un avvertimento, mi sembra piuttosto chiaro, sul fatto che l'Unione Europea non sembra disponibile a seguire fino in fondo Londra nei suoi percorsi tortuosi. E adesso parliamo di Covid in chiave Europa. La Commissione Europea ha inviato agli Stati membri per consultazione una bozza di proposta per prorogare fino al 30 giugno del 2021 il regime sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid. Un regime che ha finora consentito agli Stati membri di spendere circa 3.000 miliardi di euro negli ultimi 7 mesi per sostenere le attività economiche. L'esecutivo vuole dunque mantenere tutte le disposizioni esistenti. Insomma, nelle ore in cui si ragiona in ciascuno degli Stati membri il rinvio delle situazioni emergenziali, anche l'Unione Europea dice: ci prepariamo, come dire, ci attrezziamo per essere pronti in una chiave di proroga fino al 30 giugno del 2021. Nel frattempo però ci sono i numeri, purtroppo non sono buoni, allora un riepilogo ce lo assicura Rosanna Magnano. Nel momento in cui i contagi per la pandemia di Covid-19 sono in forte aumento in tutta Europa, è davvero importante coordinare le misure a livello comunitario e investire su vaccini e cure sicuri ed efficaci. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza a conclusione del vertice informale dei ministri della Salute europei. Le terapie intensive sono al momento sotto controllo, ben lontane dal raggiungere la saturazione, con in media l'8,17% dei ricoverati per Covid che necessitano di posti letto in rianimazione, a rilevarlo il report dell'Università Cattolica. È tuttavia necessario, si avverte nel rapporto, non abbassare la guardia, soprattutto in alcune regioni come Sardegna, Liguria, Campania e Lazio. Regione quest'ultima dove scatta l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Il Veneto intanto si attrezza per la prevenzione dei contagi nelle scuole con una nuova ordinanza che prevede test rapidi direttamente nelle classi dove c'è un positivo. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore. Tornando in un quadro strettamente europeo, ne abbiamo parlato anche qui a Europa Europa, più di una volta è stata sollevata, diciamo, la questione della relazione tra qualità dell'aria, quindi inquinamento o meno, e diffusione della pandemia. Ora, lo ricordiamo, non c'è una certezza scientifica conclamata, anche se molti ritengono che il legame sia presente. Di sicuro, e su questo credo che potremmo essere tutti d'accordo, esiste, come dire, l'opportunità anche, nostro malgrado, di cavalcare alcuni aspetti di questa pandemia per intervenire sulla qualità dell'aria. Allora, l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che è appunto l'organizzazione che di fatto controlla la qualità ambientale del continente europeo, ha richiamato ancora una volta gli effetti dell'inquinamento in relazione al Covid. Abbiamo sentito alcuni interlocutori, in particolare cominciamo da Katrin Gansleben, capo del gruppo di coordinamento sulla qualità dell'aria, appunto, dello European Environment Agency. We can see that long-term exposure to air pollution. Abbiamo notato che l'esposizione prolungata all'inquinamento atmosferico può incrementare la suscettibilità al Covid-19. Ci sono anche ricerche che cercano di capire se l'esposizione all'inquinamento può avere un effetto diretto sulla vulnerabilità al Covid, indebolendo la risposta immunitaria delle vie polmonari superiori. Occorrono comunque ulteriori studi per accertare la suddetta relazione e il meccanismo con il quale può svilupparsi. Meccanismi da studiare e capire meglio. Allora sentiamo un europarlamentare del gruppo Sinistra Democratica, Javi López, è spagnolo, e parla appunto, riflette invece su quelle che sono le prove scientifiche. Sentiamolo. Uno de los objetivos que tenemos es Uno dei nostri obiettivi è quello di raccogliere ulteriori prove scientifiche di questa relazione tra Covid-19 e qualità dell'aria, perché al momento è il miglior incentivo che abbiamo per migliorare la qualità della nostra aria. Di certo abbiamo tutti sperimentato questa cosa straordinaria per certi versi, che è stato durante il Covid il miglioramento della qualità dell'aria. Certo, lo stiamo pagando, purtroppo lo pagheremo caro in termini della nostra economia, ma quel momento, quella sorta di pausa dell'inquinamento suggerisce delle riflessioni. Noi riprendiamo a farle subito dopo l'aggiornamento perché in viaggio. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Europa, Europa. Rieccoci dunque a parlare di qualità dell'aria in relazione a questa grande pandemia, al fatto, lo ricordiamo credo davvero tutti, quanto sia stato per certi versi impressionante il cambiamento dell'aria nel periodo più stretto del lockdown, per poi andare a certificarlo naturalmente su quelle che sono state le misurazioni scientifiche. Insomma, durante il lockdown abbiamo avuto questa esperienza in Europa e nel mondo e naturalmente vorremmo continuare a poterla avere, possibilmente non al prezzo che questa emergenza ci costringe a pagare. Allora cominciamo a sentire qualcuno che di mestiere, un gruppo di interesse, si chiama Les Chercheurs d'Air, quindi i cercatori d'aria. Pierre Dornier è il presidente di questo gruppo che ha sede in Belgio. Molti sondaggi effettuati a Bruxelles e in altre capitali europee mostrano chiaramente che la maggior parte della popolazione non solo non vuole un ritorno all'inquinamento nelle città, ma che è pronta a cambiare le proprie abitudini, lasciando più spazio al trasporto pubblico e ai mezzi di trasporto più leggeri. Uno spazio, al momento, riservato alle auto. Siamo dunque pronti a cambiare davvero quei buoni propositi che sono stati un po' collegati come quelli di inizio anno, no? Siamo davvero pronti a portare avanti, anche con delle scelte che sono obiettivamente faticose, un cambiamento di lungo termine? Ora, per farlo tutti condividono l'idea che il quadro normativo complessivo in Europa, in Italia, nei paesi dell'Unione debba essere cambiato perché è ormai inadeguato, è obsoleto. Su questo punto sentiamo Sophie Perrot, che è il coordinatore, la coordinatrice di Health Environment Alliance. Sentiamo. La cornice normativa attualmente in vigore è desueta perché risale a più di 10 anni fa ed è basata su un compromesso politico piuttosto che sulla scienza. Questo è un primo serio problema. Il secondo è che la legislazione corrente dell'Unione Europea non è sufficientemente implementata dagli Stati membri. Per uscire, diciamo, un po' dal politichese, basterà dire che ben 17 dei 27 Stati membri dell'Unione sono attualmente sotto giudizio per la violazione sistematica dei limiti della qualità dell'aria. 4 sono addirittura in una fase più avanzata. Allora, torniamo da Javi López, che abbiamo sentito poco fa, spagnolo, membro dell'Europarlamento, europarlamentare sinistra democratica, anche perché lui ha il compito, assieme a un gruppo di specialisti, di scrivere le nuove norme. Sentiamo. Tra gli obiettivi che ci siamo prefissati al Parlamento europeo c'è quello di parlare non solo della portata della legislazione europea, della sua capacità di essere implementata, ma anche del modo in cui viene implementata. E una delle questioni a cui teniamo è il miglioramento e la standardizzazione dei punti di misurazione della qualità dell'aria. Un altro europarlamentare questa volta è il tedesco gruppo PPE, quindi il Partito Popolare, Norbert Linz, che tocca un tema direi centrale, che è quella del fatto di poter comparare davvero i dati europei. Una questione riguarda l'implementazione nei vari Paesi membri. Non si tratta di dover essere più severi a livello europeo, ma il mio approccio consiste nel renderlo comparabile tra gli Stati membri. In altre parole, penso che la direttiva sulla qualità dell'aria allo stato attuale contiene troppa flessibilità. Ed è lì che abbiamo bisogno di una soluzione a livello europeo. La Commissione europea in questo senso ha presentato un piano con un titolo davvero ambizioso. Si tratta infatti dello Zero Pollution, cioè quel progetto che già nel suo titolo punta addirittura ad azzerare quello che è l'inquinamento. Allora, in conclusione, e in qualche modo associando anche all'europarlamentare Norbert Linz tutti i nostri dubbi sui piani così radicali, sentiamo cosa ne pensa. Non sono un fan dei piani per azzerare le emissioni, perché li trovo tecnicamente molto difficili da implementare. Se si considerano soltanto le auto elettriche, non è che queste non generino più emissioni. Gli pneumatici continuano a produrre emissioni di particolato. Quindi ciò significa che dobbiamo correggere i valori limite scientificamente, il che potrebbe essere realisticamente fatto e creerebbe zone ad emissioni zero e non zero. Grazie anche a Sophie Petitjean della Euronet Plus News Agency che ha raccolto questi contributi nel Parlamento europeo. Adesso anticorpi monoclonali made in Italy che si candidano a terapia anti-Covid dopo aver ultimato la fase di sviluppo in un progetto finanziato dall'Unione Europea. Rosanna Magnano ne ha parlato con Riccardo Baccheschi, CEO di Achille Vaccines. È un prodotto che nasce dalla ricerca, interamente dalla ricerca italiana. Ricerca del dottor Mappuoli, uno dei più grandi esperti di vaccini nel mondo, che lavora incidentalmente adesso sull'anticorpo monoclonale qui a Siena. L'anticorpo monoclonale è un terapeutico, è un prodotto che si estrae dal sangue dei convalescenti, che quindi hanno avuto la malattia e sono in via di guarigione. Viene selezionato nel sangue appunto attraverso lo studio, la selezione delle cellule che lo producono, e attraverso queste cellule poi viene selezionato il candidato migliore che è adatto per neutralizzare il virus, ed infine viene poi clonato, portato su scala industriale e riprodotto in quantità sufficiente per una produzione di massa. È una speranza importante perché, al contrario dei vaccini, richiede tempi di sviluppo e di prove cliniche più rapidi, quindi diciamo è più facile immaginarsi un anticorpo monoclonale che arrivi sul mercato con un certo livello di qualità piuttosto del vaccino in tempi rapidi. A che punto è la ricerca e che tempi ci sono per la sperimentazione clinica? La ricerca è pressoché conclusa, adesso si tratta di raffinare più che altro lo sviluppo industriale di questo prodotto, e questo serve per andare appunto in clinica. I tempi sono molto rapidi, lo sviluppo è esattamente alla metà del suo percorso, dovrebbe arrivare a conclusione per il mese di dicembre, quando cominceremo la clinica, e infine il prodotto dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di marzo. Il finanziamento europeo, qual è la cornice? Il finanziamento europeo è stato un evento dettato dalle condizioni pandemiche, perché in realtà noi partecipavamo a questo finanziamento per sviluppare un vaccino contro la malaria, e questo rimane il focus della nostra azienda. Però, vista la situazione pandemica e l'emergenza planetaria in questo ambito, la Commissione europea e la European Investment Bank, che ci ha finanziati, hanno deciso che non solo noi ma anche altri partecipanti del fondo del Malaria Fund potessero presentare un progetto che fosse collegato alla pandemia. La prima tranche è stata di circa 11 milioni, di cui circa 5 sono stati poi da noi allocati al progetto MAPCO-19, che è quello appunto dell'anticorpo monoclonale italiano. Il progetto ha una filiera tutta italiana, giusto? È un progetto appunto che nasce a Siena, nel laboratorio MATLAB diretto dal dottor Rappuoli, e dopo questa fase di ricerca è passato a noi, che facciamo essenzialmente il project management di progetto insieme a un pool di aziende italiane, fra cui Menarini e Ibi Lorenzini, che si occupano poi della produzione sia dei lotti clinici e poi di quelli commerciali. In sostanza mettiamo in campo un processo di azienda virtuale dove noi siamo di fatto quelli che tengono insieme le fila di questa matrice. E adesso invece andiamo a Palermo per parlare di Europa da una prospettiva che è quella di una mostra che sarà aperta fino al 31 gennaio nella straordinaria cornice di Palazzo Reale. La mostra si chiama Terracque, ne abbiamo parlato con Patrizia Monterosso, che è il direttore generale della Fondazione Federico II. La Sicilia è una soglia, se guardiamo il Mediterraneo, è una soglia in mezzo al Mediterraneo. Lo era nel momento costitutivo in cui emerge questa terra tra le terre e nel mare, lo è ancora oggi. E nel momento in cui troppo spesso ci avviciniamo alla cultura, all'arte, alle mostre più che ai convegni, perché la mostra ti mette in contatto a un ruolo civico, mette in contatto il cittadino con l'arte, la cultura e la storia in maniera fattuale, e quindi la memoria diventa un fatto evocativo che innesca delle riflessioni. Non potevamo non dire che gran parte di quelle civiltà, per colpa spesso di disinteresse, di una scarsa attenzione o ancora per una riduzione di significati, si è ridotta, lo vediamo in queste, nelle immagini in movimento della sezione Mediterraneo oggi, addirittura in una convivenza tra i rifiuti. Il tema ambientale diventa un tema emergente di cui non possiamo fare a meno, lo era a suo tempo ma lo è ancora più oggi. Ma il grande timore, quello esprimiamo attraverso la sezione contemporanea all'interno della mostra, è che la guerra, le tensioni, l'immigrazione ci facciano dimenticare che siamo, ogni cittadino del mondo deve tutelare anche attraverso la propria opinione quelle terre meravigliose e quel mondo con cui noi condividiamo delle radici profonde. Un'ultima domanda e riguarda dunque questo palazzo, come accade nei grandi luoghi di cultura, è come un libro a strati. Allora, noi ora vediamo, arrivando qui questa mattina, naturalmente il nome stesso, Palazzo dei Normanni, ce lo dice, anche se in realtà c'è l'arabo dentro e poi c'è tanto intorno. So che, come dire, avete ambizioni, prossime venture per svelare altre pagine. Più che ambizioni, credo che abbiamo il dovere di svelare e rendere al mondo questo grande significato e questa bellezza, a partire dalle radici ritrovate, cioè dalla testimonianza punica, e quindi questo ulteriore percorso che entro novembre arricchirà la conoscenza del visitatore e di tutti noi. Da Alessandro Schirani, da Paolo Corleone in regia, da Gigi Donelli al microfono, grazie di essere stati con noi. GR24, ci risentiamo la prossima settimana. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.